24 mattino. Sono le 8 e 15 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Vi ricordo che tra l'altro oggi staremo insieme fino alle 10, perché dalle 9 alle 10 ci sarà un 24 mattino speciale, uno speciale dedicato al terremoto in Abruzzo. Ma andiamo con ordine, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, eccoci qua. Mi hai già dato una buona notizia stamattina. Cioè? Sarai tu a darmi la linea per la borsa alle 9. Le borse fremono. allora. No, non perché io non sia contenta quando mi dà la linea Giuliano Ferrara, certo, per carità, certo, del cielo. Si sente uno stridore di specchi, vabbè. Allora, parliamo di dichiarazione dei redditi. Io l'ho detto prima, insomma, è il tempo della mia sciagura. Io che non so star dietro neanche a una bolletta dell'acqua. Ora ascolto con attenzione tutto ciò che guarda Alessandro, io predico bene a Salvadanaio, sì, ma non razzolo altrettanto bene. Io non pagherei le tasse solo per pigrizia, solo per questo. Guarda, però, adesso insomma, se ti sente brunetta, senti tu che... Allora, ormai non abbiamo scampo, non c'entra molto Brunetta, però so che è il tuo ministro preferito, quindi non abbiamo più scampo, lo dobbiamo ricordare, ormai lo faremo sicuramente per molti giorni, il 7.30 ci insegue, dobbiamo compilarlo e se non ce la facciamo entro la fine del mese a consegnarlo alla nostra azienda, cioè al sostituto d'imposta, possiamo utilizzare un altro canale, che è quello del centro di assistenza fiscale. In questo caso abbiamo qualche settimana in più di tempo. Come si stanno attivando i CAF in questo periodo molto intenso per quello che riguarda la gestione delle problematiche fiscali dei contribuenti italiani? Lo chiediamo stamattina a Valeriano Canepari, che è presidente nazionale del CAF CISL, ma anche della Consulta Nazionale dei CAF Italiani. Canepari, buongiorno. Buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, se non utilizziamo il canale del sostituto d'imposta, cioè del nostro datore di lavoro, quanto tempo abbiamo per consegnare invece la nostra dichiarazione dei redditi ai centri di assistenza fiscale, Canepari? Ma la norma dice che i contribuenti hanno tempo fino alla fine del mese di maggio. Poi noi abbiamo il tempo per inviare i dati per i conguagli fiscali al sostituto entro il 30 giugno, quindi anche ai primi giorni di giugno, se c'è ritardi nella consegna dei CUD, che è il problema più grande che noi abbiamo, noi siamo operativi lo stesso. Ecco, noi ci siamo sempre posti l'obiettivo di mettere al centro il contribuente e quindi di assisterlo per ogni sua esigenza in ogni momento, anche oltre il 30 giugno, anche il 30 maggio, anche se la norma indica questa come termine per la consegna ICA. Tra l'altro, dottor Canepari, io volevo anche ricordare tra l'altro che di questo argomento oggi parliamo anche a Salvadanaio alle 12 questa mattina. Diamo un po' così criteri guida di comportamento per i contribuenti alla luce di queste scadenze. Oggi poi, grazie anche alle telefonate in diretta degli ascoltatori, entreremo nel merito un po' più dettagliato delle varie problematiche fiscali che ognuno di noi ha. Quello che volevo dire è che molti lavoratori denunciano spesso che i datori di lavoro sono in ritardo con la consegna del CUD, comportando così altrettanto ritardo anche nella gestione di tutta la documentazione da parte dei lavoratori. Ecco, se il nostro datore di lavoro non ci avesse consegnato tutta quella certificazione che è praticamente quella utile, quella con la quale noi possiamo sapere quanto abbiamo guadagnato lo scorso anno e di conseguenza fare un po' tutto il punto delle detrazioni, delle deduzioni di cui possiamo avvalerci quest'anno, cosa facciamo col datore di lavoro? L'unica è sollecitare il datore di lavoro o il suo consulente che gli gestisce le paghe di consegnare il più velocemente possibile questo documento, senza il quale noi siamo nella totale impossibilità di agire. E questo è l'eterno problema che ogni anno si ripete, nonostante ci sia un'indicazione, la norma preveda che i CUD debbano essere consegnati col 28 di febbraio, abbiamo molti lavoratori che a tutt'oggi non hanno ancora ricevuto il CUD. In questi giorni noi abbiamo dovuto annullare degli appuntamenti che avevamo fissato per una gestione più efficiente della, dell'attività, perché i lavoratori, i lavoratori prevalentemente non hanno ancora ricevuto il CUD dal proprio datore di lavoro. Quindi è un problema, insomma, che esiste. Di conseguenza, sì, che ogni anno si ripete. Che ogni anno si ripete. Quindi a maggior ragione è importante sapere che, per esempio, attraverso il centro di assistenza fiscale, la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi si può consegnare con qualche settimana, non dico di ritardo, ma qualche settimana più avanti. Le novità con i quali contribuenti italiani quest'anno si confrontano sono diverse, perché il fisco in qualche modo si è attrezzato per alleggerire il peso delle tasse dato il momento di crisi. Vanno ricordate le disposizioni che sono state introdotte dalla finanziaria di quest'anno, la manovra d'estate, il decreto anticrisi. Magari se avremo il tempo faremo anche qualche esempio, però in relazione all'attualità, Canepari, mi piacerebbe anche capire se i CAF si stanno attrezzando per le popolazioni d'Abruzzo, perché credo che qualche iniziativa l'abbiate in mente. Noi adesso vogliamo capire meglio quello che è stato annunciato qualche giorno fa sui giornali, cioè l'intenzione del governo di poter istituire un soggetto al quale devolvere il 5 per 1000 per gli aiuti alla ricostruzione. Ecco, oggi non si sa niente di più di questo. È evidente, se nell'elenco dei destinatari del 5 per 1000 vi fosse un soggetto di questo tipo, è chiaro che noi come centri di assistenza fiscale faremmo un'opera di informazione ai contribuenti di questa opportunità che è stata istituita all'ultimo momento. Poi è chiaro che la libertà di scelta di destinazione del 5 per 1000 è una discrezionalità totale, assoluta del singolo cittadino, a cui noi diamo solo informazione e poi è lui che fa la scelta. Un'altra cosa sulla quale stiamo riflettendo in questi giorni, nel giro di pochi giorni, decideremo è se intervenire anche noi come sistema dei CAF per contribuire alla raccolta di soldi da devolvere poi ai soggetti che faranno l'opera di ricostruzione indicata dal governo, quindi non a soggetti privati ma a soggetti pubblici, la Protezione Civile ed altri soggetti che gestiranno la ripresa. Noi stiamo pensando, per esempio, ci sono alcune sollecitazioni in questo senso, di chiedere un contributo aggiuntivo rispetto alla tariffa che noi pratichiamo di 50 centesimi, un euro, ai quali ne aggiunge un'altra quota il CAF, che poi verrà destinato all'opera di ricostruzione, perché da quello che si capisce di risorse, di soldi ne serviranno veramente tanti. Veramente parecchio. Un'opera di solidarietà importante. No, speriamo tra l'altro che poi l'eventuale iniziativa di destinazione delle 5 per 1000 non produca tante polemiche nel nostro paese, e capiamo sicuramente che, secondo quello che hanno denunciato molte associazioni di volontariato, questa iniziativa che vorrebbe essere presa dal ministro Tremonti rischia di essere controproducente, perché dicono metterebbe in crisi tante altre piccole associazioni di volontariato. Speriamo appunto che questa faccenda non diventi una polemica e basta. Gli ultimi mesi sono stati mesi di intenso lavoro per i CAF, per i centri di assistenza fiscale del nostro paese, perché hanno assistito molte famiglie, molti pensionati nella predisposizione della famosa domanda per la social card, ma anche per il bonus famiglia. Com'è andata, Canepari? Ma un po' di numeri li abbiamo dati già nelle settimane scorse rispetto al bonus famiglie, che è stata l'attività che dopo le feste natalizie ci ha visti attivamente impegnati nell'assistere i contribuenti per la compilazione di questa domanda di richiesta di bonus. Insomma, sono state gestite da noi quasi circa poco meno di 3 milioni di domande. Noi stimiamo di aver... È caduta la linea con Canepari, peccato, però insomma stiamo quasi concludendo il tempo a nostra disposizione, quindi è stata anche una caduta non particolarmente problematica. Non riusciamo probabilmente a recuperarlo, adesso non ce la facciamo neanche Alessandro, tanto ci manca poco. No, quello che volevo fargli raccontare è che la Consulta Nazionale dei CAF ha anche firmato una sorta di convenzione con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per snellire le procedure grazie alle quali le famiglie a basso reddito possono fare domanda al proprio comune di residenza per ottenere il famoso bonus energia, per cui questa anche è una cosa interessante. Chi fosse interessato può sicuramente andare al proprio CAF, al CAF vicino casa, insomma, per chiedere informazioni anche su questo. Ringrazio allora Valeriano Canepari, che non abbiamo più con noi, presidente della Consulta Nazionale dei CAF. Alessandro, noi oggi a Salvadanaio ritorniamo di nuovo sulle 7.30. Sono le 8.30 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan e allora uno sguardo alle notizie in primo piano. In Abruzzo è arrivato il maltempo nelle zone colpite dal terremoto. Da ieri L'Aquila è anche la città più fredda d'Italia. Intanto non cessano le scosse, l'ultima ieri sera alle 23.14 di intensità 4,9 sulla scala Richter, e da un primo controllo su 1000 edifici ne risulta inagibile il 30%. Vi ricordo, come detto, che parleremo del terremoto in Abruzzo in uno speciale dalle 9 alle 10. Cresce la preoccupazione per i 16 membri dell'equipaggio, 10 dei quali italiani, del rimorchiatore sequestrato dai pirati al largo delle coste della Somalia. Gli uomini sono stati portati a terra. Intanto gli americani hanno liberato un loro concittadino ostaggio con un blitz in cui 3 pirati sono stati uccisi. La Corea del Nord intende riaprire i suoi impianti nucleari in risposta alla condanna del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il lancio del missile satellite effettuato da Pyongyang. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'agenzia di stampa ufficiale del regime coreano. Infine lo sport con il MotoGP. Ieri Casey Stoner su Ducati ha vinto la prima prova del MotoGP in Qatar, secondo Valentino Rossi su Yamaha, ma è polemica per la corsa interrotta dalla pioggia e per la gara in notturna. E dunque alle 8.31 minuti, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, parliamo del bilancio del Senato. Si può dire taglia qui, taglia là, ma alcune voci sono state tagliate e il Senato, nel bilancio che verrà approvato settimana prossima, è riuscito in un'impresa che banda i qualunquismi, è anche un po' un'impresa perché si tratta di una macchina in corsa, no? Come si suol dire con questa espressione. Allora una macchina in corsa non la si può far frenare di colpo. Le spese sono, con l'inflazione, con tutto quello che sono gli aumenti dei prezzi, in corsa, e invece taglia di qui, taglia di là. Almeno questa la possiamo dire una buona notizia: per il 2009 il bilancio di previsione prevede una spesa che non è aumentata rispetto all'anno precedente. Io ne voglio chiedere conferma, ma sono tante cifre: 594 milioni e 500 mila euro, ho letto questa cifra, ma voglio chiedere tutto al senatore Paolo Franco, che saluto, della Lega Nord. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno. Uno dei 3 questori del Senato. I questori sono quelli proprio che mettono a punto il bilancio. Allora, questa è la cifra che dobbiamo tenere presente, 594 milioni rotti? Noi dobbiamo tenere presente che questa cifra è comprensiva anche del accantonamento dei fondi di riserva. La cifra di effettiva spesa è leggermente inferiore a questa dei fondi di riserva, che sono obbligatori per spese che possono essere impreviste durante l'esercizio. Comunque sia, il bilancio di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Presidenza la settimana prossima prevede non solo un'invarianza, ma anche una modestissima comunque inversione di tendenza, nel senso che le previsioni di spesa per il 2009 saranno leggermente inferiori a quelle del 2008. Un po' di sforbiciate sono state, tagli, qualcuno ha detto virtuosi. Per esempio, è vero che non ci sono più gli 81.000 euro per il parrucchiere delle senatrici? Che no? Sì, nel momento in cui abbiamo deciso di ridurre, mettere a costo dei senatori il costo dei barbieri, ovviamente analogamente è stato fatto per certo. Lei ha citato barbieri, ci fu l'epocale Emerenzio Barbieri, che non è una battuta, è un onorevole Emerenzio Barbieri, che si alzò e chiese il barbiere gratis anche alla Camera, visto che ce l'hanno gratis al Senato. Voi l'avete tolto gratis e quindi se lo pagheranno anche alla Camera. Credo anche 200.000 euro per i corsi di lingue, ho letto, che credo in pochi facessero evidentemente. Se... abbiamo deciso di stanziare, e questa è un po' una politica che è stata fatta anche in diversi capitoli di bilancio, è evidente che la parte anche di aggiornamento che riguarda i senatori e anche il personale dipendente del Senato è utile e necessaria, perché non può essere cancellata per ovvie ragioni, altrimenti insomma, invece di qualificare la presenza al lavoro dei parlamentari e delle persone dipendenti del Senato, si andrebbe nella direzione opposta, che non è certo il caso. però abbiamo deciso di dare una certa razionalizzazione, quindi su non più diciamo per diritto o in contenuti abbastanza estesi di spesa, ma solo dietro una motivazione esplicita di concedere, sì, la possibilità di fare dei corsi di usufruire di corsi di aggiornamento delle lingue. Tra l'altro io leggo dall'articolo del Sole 24 Ore di Mariolina Sesto, che tra l'altro è qui con noi e che saluto, le previsioni per il 2009 di spese meno, quindi risparmio, meno 17, quasi 18% per il cerimoniale, meno 21% per le attività interparlamentari. Invece costano di più le pensioni dei dipendenti, più 6,86, i vitalizi più o meno sono così, più 0,31 più o meno, sono invariati. Spese di pulizia e facchinaggio aumentano del 7,48%. Mariolina Sesto, c'è una questione personale che tu, buongiorno innanzitutto, ciao, che hai evidenziato sul Sole 24, una questione sul personale del Senato che tra poco andrà affrontata. Buongiorno a voi. Esatto, esiste infatti la questione personale, che sarà uno dei nodi che i questori dovranno affrontare insieme a tutto il Consiglio di Presidenza. Prima però di parlare di questo, vorrei precisare, Alessandro, che questo di cui stiamo parlando è un bilancio di previsione per il 2009, quindi diciamo che l'obiettivo che i questori si sono dati è quello di non accrescere le spese, ma se questo obiettivo sarà effettivamente raggiunto lo vedremo, certo, solo l'anno prossimo. Questo diciamo, certo, se non bilancio di previsione. Le previsioni, esatto. Il consuntivo 2008 invece è comunque un po' in crescita, sebbene diciamo sotto l'inflazione programmata, però comunque c'è un più 2% di aumento delle spese 2008 sul 2007. Quanto al personale, sì, c'è un problema perché appunto è una delle voci con il segno più davanti, più 1,35% per le retribuzioni e più 6,86% per le pensioni. Queste voci qui sono aggravate dal fatto che nonostante i questori invitino il Consiglio di Presidenza a mantenere rigidamente bloccato il turnover, lo stesso Consiglio di Presidenza in qualche seduta fa ha dato il via libera a un nuovo concorso che era stato precedentemente bloccato e che consentirà nei prossimi anni di assumere 10 o più consiglieri parlamentari. Tutto ciò si aggiunge al fatto che è stato già espletato, si sta espletando un concorso per 30 nuovi commessi che entreranno, saranno assunti dal Senato a partire dal gennaio 2010. E questo inevitabilmente aumenterà i costi. Senatore Franco, le chiedo onestamente, servono queste persone? Sono concorsi bloccati? Se ne sente la necessità? Questi aggraveranno sul bilancio, inutile negarlo. È naturale che il turnover, nel momento in cui ci sono del personale dipendenti che vanno in pensione, in una certa misura debba essere attivato. Pertanto il fatto che ci siano dei concorsi, e giustamente ricordava la dottoressa poco fa, per quanto riguarda i commessi, è una previsione che è rinviata al gennaio del 2010, è necessario per avere, in caso di necessità, in caso appunto di pensionamenti, un ordine di graduatoria che ci permetta di ripristinare ovviamente la funzionalità degli uffici interessati dai pensionamenti. Diciamo questo, il principio comunque base, appunto fra uscite dal lavoro ed entrate nel lavoro, è il saldo poi quello che importa, il principio base è che i senatori, il Consiglio di Presidenza dell'ultimo bilancio, e varrà anche ovviamente per il prossimo bilancio che verrà approvato, è quello di ridurre le unità dipendenti al di sotto delle 1000 unità, e quindi questo è il nostro obiettivo che sarà dato ovviamente. Quindi più persone vanno in pensione meno vengono assunte, giusto per fare questo. Senta, ci sono delle voci che tra l'altro Mariolina Sesto ha evidenziato sul Sole 24 Ore in questo articolo, sulle promesse che si, per esempio, perché gli ex senatori, insomma gli ex parlamentari, hanno ancora benefit su viaggi aerei, ferroviari, sul telepass autostradale? Perché? Allora, il principio del passato che ha tenuto e che rimane ancora adesso in vigore, anche se è oggetto della nostra attenzione per un controllo dei costi e lo sarà nelle prossime settimane, è che un parlamentare, quando cessa anche l'attività parlamentare in senso stretto, continua ad avere un'attività politica perlomeno nel periodo immediato, nei periodi successivi. È un principio un po'... Da parte mia non posso che criticare un aspetto che riguarda il fatto che questi benefit, chiamiamoli così, perché insomma in fin di conti lo sono, di supporto all'attività politica, anche cessata l'attività parlamentare, debbano, critico, ripeto, debbano essere validi di vita naturale dura. Ecco, questo è un aspetto che ovviamente non mi trovo d'accordo. Ecco, Mariolina, su questo è uno dei punti sui quali credo anche il questore ci ha detto, il senatore Franco, si lavorerà, cioè questi benefit, che poi, guardi senatore, sono le cose peggio percepite dalla popolazione, glielo dico francamente. Comunque Mariolina Sesto, su questo e su altre e su cosa di altro si lavorerà, e tu hai evidenziato che insomma sono voci che gridano un po' vendetta. Esatto, come il CAF gratuito che si è scoperto. Il CAF, cioè quello di cui per le dichiarazioni, gratuito. Esatto, una cosa diciamo di grande attualità, perché tutti gli italiani in questo momento sono alle prese con la compilazione del 7.30. A Palazzo Madama vige un regime particolare, la compilazione del 7.30 è completamente gratuito. Però nonostante ciò ne usufruiscono solo 25 senatori e 48 ex senatori. Questo significa che pochissimi, c'è un consulente pagato per compilare 70 e poco più 7.30 all'anno, e questo significa una lievitazione di costi. Si è fatto il calcolo che ogni 7.30 compilato costa 250 euro contro 50 che si spendono fuori da Palazzo Madama, veramente un furto, ecco. Sembra che questa facilitazione verrà tagliata a partire dalla... Come quella dei benefit sui quali, senatore Franco, certo, stiamo... Il principio lei, Franco, non lo condivide, e poi state cercando di vedere come limitare. Questa del CAF, come l'avete scoperta, senatore Franco? Sono stati citati poco fa solo corretti, ed è uno dei tanti punti insomma sui quali bisogna porre l'attenzione, anche perché in effetti in primo luogo bisogna risparmiare dove è più semplice risparmiare, perché giustamente offrire un servizio che costa e del quale i senatori non usufruiscono mi sembra davvero quanto di più assurdo possa esserci. Cose come queste magari ce ne sono ancora, è evidente che sostenere delle spese così non ha ragione d'essere. Io voglio ricordare comunque sempre, quando parliamo del bilancio del Senato, che è poi anche la difficoltà nell'intervenire anche con cifre, con somme sostanziose, perché alle volte parliamo di qualche decina di migliaia di euro che non spostano molto, però comunque il principio tante volte è altrettanto fondamentale anche nei confronti, per rispetto nei confronti dei cittadini che pagano le tasse. Senatore, dicevo che questo bilancio del Senato è rigido, cioè dovuto alle indennità che riguardano sia il personale che i senatori, che le pensioni sia del personale ex dipendente che degli ex senatori, per un 84%, quindi il 16% su cui dobbiamo lavorare è quello su quale... ovviamente una certa parte abbastanza contenuta del bilancio, però è su quella che dobbiamo porre attenzione. Senta, ma lei senatore, tra l'altro statuto, giustamente, delle leggi, siete lì a cercare di tagliare quelle, ma faccia una dichiarazione proprio, lei per esempio i vitalizi, che cosa ne pensa? Lei, al di là del fatto che ci sono, ma... li abolirebbe o no? Ma io credo che i vitalizi nella scorsa legislatura sia stata fatta dai questori precedenti un'importante riforma, e lei sa che fino alla legislatura precedente era possibile operare i riscatti dei vitalizi anche se la legislatura era durata un periodo inferiore rispetto ai 5 anni. Bene, questo è stato abolito, e quindi nella sostanza ci sarà diretta attinenza fra quanto il senatore paga come contributo per ottenere il vitalizio e poi questo il vitalizio. Ma abolirli del tutto? Questo sia già una cosa molto seria e importante che è stata fatta. Abolirli del tutto? Abolirli del tutto vorrebbe dire comunque far sì che i senatori possano scegliere se evitare e non pagare quindi il contributo per il vitalizio e e farlo invece per avere vita rito, che è una cosa che è già oggi in vigore. Quindi non è una obbligatorio per il senatore usufruire di un vitalizio, non è che gli venga dato punto e finito. Ah, non è obbligatorio? Gli viene dato nel momento in cui versa i contributi. Sì, certo, ma non è obbligatorio, però non si ha contezza di senatori che vi rinuncino, insomma, versando i contributi. Detto questo, senatore, io la devo salutare così come Mariolina Sesto. Visto che lei è al Senato, i 1.000 euro che chiede Schifani per il terremoto in Abruzzo, lei li darà, ce ne vogliono di più? Io credo che sia una cosa personale e credo che personalmente darò di più. Perfetto, la ringrazio, ringrazio il senatore Paolo Franco, questore, uno dei 3 questori del Senato, della Lega Nord, così come ringrazio Mariolina Sesto del Sole 24 Ore per il bilancio di previsione del Senato. Allora, le 8:47 minuti, noi ora parliamo di province. Voglio ricordare che dalle 9 alle 10 ci sarà un 24 mattino speciale, andremo avanti fino alle 10 per parlare dalle 9 alle 10 specificamente e per un'ora del terremoto in Abruzzo, che non dimentichiamo certamente. Tra l'altro i nostri microfoni saranno aperti, chiamando all'800 24 0024, potete farlo già anche adesso. Prenderemo telefonate per parlare appunto del terremoto in Abruzzo dalle 9 alle 10. Prima parliamo ora di province. Allora, quanti dicono sono enti inutili che vanno aboliti? C'è chi li vuole abolire, c'è chi li vuole depotenziare. L'ultima proposta tra il ministro Brunetta e Maroni, credo, cioè dire non si possono abolire perché bisognerebbe cambiare la Costituzione, depotenziamole, cioè togliamo tutti quegli enti, consiglio provinciale, presidente della provincia, e facciamo in modo che, ne so, che il sindaco del capoluogo di provincia sia anche il presidente di provincia. Un escamotage così per salvare la Costituzione, velocizzare la procedura e depotenziarle. Intanto nasceranno gli organi di rappresentanza con le prossime elezioni altre 3, Monza e Brianza, Fermo e la provincia di Bat, questa è quella che ci ha più incuriosito come sigla, Barletta Andrea Trani. Io saluto quello che viene identificato come il padre della Bat, è stato senatore di Alleanza Nazionale, Filomeno Biagio Tatò, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho qua un articolo che la redazione mi ha recuperato risalente al 2003, in cui parla lei, in cui ovviamente in questo momento me lo sono perso. Ah, no, eccolo qua, l'ho trovato. Scrive lei, Biagio Tatò, sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 24 novembre 2003: l'istituzione della sesta provincia, pugliese ovviamente, può portare la Puglia a progresso, ricchezza e lustro. Pensate a Trani col tribunale antico di 300 anni, alle potenzialità immense della città di Barletta, il cui porto marittimo è stato più ampio e ricco di traffico dello stesso vecchio porto borbonico di Bari. Ancora, com'è possibile pensare di tenere ancora al guinzaglio un territorio così vivo, così attivo? La storia ci grida questa aspirazione, volersi ad ogni costo svincolare dal dominio della città di Bari. Sono un po' preoccupato, senatore Tatò. Ci vuole questa provincia? No, assolutamente no, perché io dovrei fare una piccola parentesi storica. Sì. Che nel 1150, più o meno di lì, Bari fu rasa al suolo. E quindi tutta da un certo Guglielmo I Normanno e tutto il nord barese prese, diciamo, ebbe la prevalenza sulle attività commerciali, industriali e soprattutto sulla come sede di riferimento di tutte le attività militari e politiche. Accidenti, l'abbiamo presa un po' lontana però, senatore. Sì, cioè, come vuole. Mi dica però perché serve questa provincia, Barletta Andrea Trani. Questa provincia serve prima di tutto perché costituisce una piccola etnia, direi, della Puglia. Le province sono state sempre punto di riferimento dello Stato e del governo, giusto per prenderla un po' alla lontana, anche ai tempi dei Romani, l'Egitto era una provincia, la Grecia una provincia, la Cappadocia, eccetera, erano tutte entità amministrative e non, diciamo, geografiche. Sì, ma ci sono troppi livelli, senatore, costano troppo, costano e chi troppo, le paga? Infatti, noi, cioè voi. L'Ispes aveva fatto una valutazione di 10 miliardi di euro, tutte 110 province, però le province rappresentano un decentramento di competenze al servizio dei cittadini. Le immagini che ci sono, ben 40 tra uffici e istituzioni che vanno alle province, però io faccio una riflessione, attenzione, poi dopo arriverò alla mia conclusione finale, faccio una riflessione: se noi volessimo abolire le province, e queste tre province ultime sono già legge di Stato, per cui sì, o si eliminano tutte o non si elimina nessuno, neanche queste tre, se noi dovessimo trasferire le competenze delle province ai comuni o alle regioni, i dipendenti dei comuni e delle regioni dovrebbero fare il lavoro che fanno adesso le province, ovvero bisognerebbe aumentare o trasferire i dipendenti delle province a comuni e regioni. Vabbè, ma non è, cioè, pensi tutti i gettoni di presenza dei consigli provinciali, pensi fare la prefettura ad ogni... A proposito, lei di dov'è? Di Barletta, Andrea? Io sono originario di Barletta, ma sono da 40 anni che sto a Bari. Ah, e sta a Bari? E quindi vuole la provincia dove sta, però sta a Bari lei? No, io voglio la provincia di Barletta, sì, certo, Trani, certo, la cosiddetta BAT, certo, perché mi sono speso... E però sta a Bari? E sto a Bari, lavoro a Bari, cosa c'è di strano? No, vabbè, insomma, pensavo... Sono che fosse, 50 chilometri. Che fosse così, appunto, che fosse così legato al territorio da starci. Comunque, tra l'altro, io voglio salutare con noi anche Andrea Bartoli, buongiorno. Buongiorno. Ci parla da Brescia. Lei non fa il politico, fa il medico chirurgo all'ospedale Sant'Orsola, ma è uno dei promotori nel bresciano di una lista civica che sta cercando di raccogliere le firme. So che siete a 200 firme, entro l'8 maggio ve ne servono 1000 per presentarvi alle provinciali con questa lista dal logo "non serve, non voto", cioè lei è contro le province. Sì, io saluto lei, gli ascoltatori, sì, il senatore Fatò, il nostro interlocutore di oggi. Io faccio parte appunto dell'associazione civica Brescia, che da anni opera sul territorio della città. Noi abbiamo aderito con entusiasmo al movimento "non serve, non voto", che è un movimento che è nato verso la fine del 2008, metà del 2008, nel Veneto, nell'allora ricco e produttivo nord-est. Ovviamente non serve la provincia per voi, non serve dunque. Non serve, non voto. Comincio a lanciare un messaggio agli ascoltatori che sono interessati al movimento a visitare il sito www.nonservenonvoto.it, sul quale potranno avere ulteriori approfondimenti, certo, e chiarimenti, e che invito ad aderire. Dicevo, questo movimento è nato appunto nel nord dell'Italia ad opera di imprenditori assolutamente trasversali come Marina Salomon, Massimo Carraro, Santo Verciazzi, sì, Massimo Calearo. Ma voi vi volete candidare? Cioè voi volete raccogliere firme per candidarvi? Ci candidiamo, presentiamo delle liste, ma non solo a Brescia, dovrebbero essere all'incirca 20 le province nelle quali riusciremo a portare il nostro simbolo, che si chiama "Amo l'Italia, non voto la provincia", la nostra lista. Però è bello il fatto che vi presentate alle provinciali per abolire le province, con l'unico programma, credo sia questo, un punto: abolire le province. Noi siamo dei candidati anomali, non chiediamo voti, noi chiediamo spazi televisivi, radiofonici, spazi di stampa, alla luce del fatto che tra poche settimane, come tutti sanno, l'informazione politica sarà sostanzialmente esclusivo uso dei non me ne parli, ho già capito la par condicio, ho già le mani nei capelli per quindi questa par condicio. Abbiamo deciso di fare la campagna elettorale utilizzando i mezzi del sistema. Benissimo, io sono contento, no, non usi il sistema la parola, no, però sono contento di averle dato spazio, insomma, visto che tra poco non ce ne sarà. No, ma rimanga con noi, Bartoli, io ho un minuto, vorrei tornare per un attimo a Bari, dove però c'è Filomeno Biagio Tatò, che è il padre cosiddetto, si è battuto tantissimo lei per la BAT, la Barletta Under 30. Che ne pensa di questi "non serve, non voto", di persone che si candidano per dire "non votate le province, aboliamo le province"? In verità anche nella BAT è stato prima un movimento, adesso è una lista di "no alla provincia". Ci sono. Guardi, le province o rimangono tutte o le eliminiamo. Io solo e soltanto per una situazione che si è venuta a creare adesso, cioè la crisi economica e l'emergenza terremoto, io proporrei un attimo di riflessione, cioè un congelamento di tutte le province con nomina di un commissario di governo, e nello stesso tempo solleciterei il governo perché alle votazioni ci sia una scheda perché tutti i cittadini possano, a similianza di un referendum, esprimere il loro parere sulle province, sì o no. Ma come? Lei vuole la provincia e mo vuole toglierla? Momento, perché io voglio l'Italia ricostruita, perché noi tutti italiani possiamo subire le catastrofiche conseguenze del terremoto. Ripeto, solo e soltanto in funzione di questi solo per eventi, funzione, crisi vabbè. Economica e terremoto. Non annullamento delle province, congelamento. Sì, no, ho capito, con il commissariamento. Ma guardi, io vi devo fermare, sia Filomeno Biagio Tatò, grazie, e Andrea Bartoli, grazie, di Non serve non voto, lo trovate anche su internet. Mi fermo qui, ma in realtà continuiamo tra poco, nel senso parliamo uno speciale lungo di un'ora sul terremoto, 800 24 00 24 per chi vuole intervenire, 24 mattino speciale oggi dalle 9 alle 10, e allora GR24, grazie a tutti e continuiamo tra poco.